best rock and roll station in the world. It's Rock FM. La domanda di quest'oggi dedicata ai cowboy all'ascolto. E agli... Bang bang. E agli indiani? Chi ha scritto la colonna sonora di un film western? Forse Marilyn Manson? Cascata la penna. Forse Marilyn Manson? Per sottolineare il fatto che non è Marilyn Manson. Forse Bob Dylan? Beh, io qua sarei già più interessato a rispondere di sì. Non faccia lo stupidino. Pat Garrett and Billy the Kid. Mi piace la suspense. Mitica pellicola western del 73 diretta da Sam Peckinpah. E la colonna sonora venne creata proprio da Bob Dylan, che ebbe anche un piccolo ruolo nella pellicola. Yes. Nello stesso anno pubblicò anche la colonna sonora a nome Pat Garrett and Billy the Kid, che tra l'altro è stato un film straordinario, oltre che il disco di Bob Dylan veramente eccezionale. Ricordo a tutti che la famosa canzone Knocking on Heaven's Door, bussando alle porte del paradiso, fu scritta da Dylan proprio per questo film straordinario. Straordinario il film, straordinaria la colonna sonora, bellissimo il brano Knocking on Heaven's Door, entrato di prepotenza. Ma lo sto annoiando, forse. No, è un'ottima cosa, mitico freak. Passando alle porte del paradiso, con una meravigliosa introduzione di Roberto Frecantoni, Bob Dylan, per ricordare così Pat Garrett and Billy the Kid. Sapete che ho preso una decisione, mi sa che è meglio se non dico più l'orario, perché la struttura qua sta cadendo a pezzi. Questo orologio qui fa 8.35, questo 8.33, quello là sopra è sul 31, 32. Quindi non lo so, siamo poco dopo le 8.30, ecco. Qui c'è l'Ariele, questa è Rock FM, Spadino è di là dall'altra parte del vetro e Frick è di là che si mangia le brioche. Tireremo dritto fino alle 9, ancora con qualche sorpresa per voi sulle nostre frequenze. Allora, mi sgridano via mail perché da quello che ho intuito in una trasmissione di ieri sera su Rock FM, ovviamente, Claudia è caduta dal pero non sapendo cosa fosse il raduno surrealista di pane, burro e rock and roll. Mi sgridano perché dicono: ma perché non spargi la voce? Ragazzi, ma il raduno surrealista di pane, burro e rock and roll è carbonaro, è partigiano, è così, fatto da noi, in casa, cucinato tra di noi, capito? E cioè, mica sto lì a dire a Claudia: oh, Claudia, vieni vestita da indiana domenica. So cosa mi risponde, quindi non glielo chiedo nemmeno. siete voi che dovete spargere la voce, poi non sgridatemela perché mi dicono che l'avete anche sgridata. No, no, non ne sapeva nulla, poverina. Vabbè, questo per ricordare l'appuntamento di domenica. Stavo pensando fra me e me anche che domani, visto che è l'ultima puntata e poi chiuderemo la Claire sopra Celle Ligure, potremmo inventarci qualcosa, potremmo fare una puntata surrealista domani, magari chiedendo chi viene e chi non viene e facendo tipo telefoni aperti, una roba così, se vi va, ok? Lo decideremo comunque nel corso della puntata di domani. Proseguiamo quella di oggi che è meglio. Ehi Rugna, cazzo è quella roba lì? Quale roba, cosa? Quelle robe che hai lì, sulla testa. Ma dove? Dai, non mi far prendere male. Che schifo, giganti, che schifo. Dai, fottiti frigo, così vado in paranoia. Dimmi dove, cosa sono? Sono le corna da cervo che ti ha fatto la top albina. Cretino. Mi ero preso male. E poi non è albina, topo razzista del cazzo, è ariana. Topo cervo. Ragazzi, Ariel, che perdonami, c'è, chiedo scusa anche alla redazione, sì. Ho dei problemi di traffico, amici, collaborate, sì, insomma. Io collaboro quanto vuoi, frega, che problema c'è? Il traffico, il parcheggio, sì, sto diventando pazzo. Hai messo la macchina, ma bisogna andare a spostare la macchina, ma dove l'hai messa? L'ho messa qua sotto nel condominio, nel cortile del condominio, nello spazio del peretto, del portiere. No, lo spazio del portinaio. Lo so, devo rimuovere. Quello si incazza, frega. Lo so, devo rimuoverla. Guarda, immediatamente. Vado avanti. No, il campanello, no. Questo è Peretti. Questo ci spacca in due. Ma anche tu, Frick, ma la macchina. Spadino, cerca di far. Buongiorno, signor Peretti. Benvenuto. Ho paura che sappiamo già. Lo sa che Frick arriva da lontano. Arriva tutte le mattine, è puntuale. Vero. Che uno arriva a Milano, c'è il traffico. Non me ne parlate. C'è un disastro. Ogni giorno, sempre con l'ecopass. La gente non capisce. Non sai dove metterla, sei di fretta. Io speravo lei capisse, Peretti. Speravo, la ringrazio. La ringrazio. Per fortuna che qui sotto ci sono i parcheggi, ognuno c'ha il suo parcheggio apposta. Forse per quello che è venuto. Ero solo per avvertire il dottor Antoni che di non preoccuparsi per la sua macchina. Grazie, la sua comprensione. Comunque la sposta subito, c'è Peretti lì sopra. Lei, le do le chiavi. Quello è, guardi, Peretti, lei ci tiene al suo lavoro, noi teniamo al nostro. Sì, quello è scuso, il suo spazio. Certo. Frick è un deficiente che ha messo la macchina al posto del Peretti. Non deve. Non devo, lo so, ma non c'era un buco libero. Ma adesso la sposti. Vabbè. Ragazzi, non dovete parlare così. Io capisco, siete degli artisti, avete dei vostri tempi, avete anche un po' la testa fra le nuvole, se parcheggiate dove trovate. Quello non era il mio parcheggio privato, quindi puoi stare tranquillo. Ma c'è su scritto Peretti. Sì, lo ha messo lì, ma in effetti lì è divieto di sosta, quindi non me la prendo con voi. Il solo problema è che sono arrivati quelli col carro attrezzi. No. L'hanno portata via, perché ovviamente lo dovete capire, divieto di sosta, non si può parcheggiare lì. Comunque l'ho fatto. Ma lei poteva fermarmi. No, le ho fatto una cortesia. Siccome dovevano portarla al deposito, ho detto: no, ragazzi, non portatela al deposito di Milano, perché altrimenti il povero dottor Antoni perde una giornata intera ad andare a recuperare questa macchina. Almeno detto, questo, grazie. Gliel'ho fatta portare nel deposito vicino a casa sua, a Viareggio. Ecco. È contento? Sì. No, ma è di Bologna, Antonio, non è di Viareggio. Non è di Viareggio! No, è Bologna. No. Sarebbe Bologna. Che guaio combinato. No, ma Viareggio comunque è una città bellissima, ci sono stato tante volte al mare con la famiglia, è veramente da vedere, Quindi Viareggio. Non ci sono polizia problemi. Polizia municipale. Non sono per niente arrabbiato, quindi state pure tranquilli. Infatti, certo. Arrivederci, grazie. Grazie. Saluti ai telespettatori. No, è la radio. Arrivederci. Salve. Sì, dottor Peretti. Cazzo, fino a Viareggio a prendere la macchina, Frick. Che bella sorpresa. Questo portiere o portinaio mi sta diventando sempre più insopportabile. E me, che c'è? To love her, but I have to kill her. Guns and Roses. Così prosegue la mattina di pane, burro e rock and roll. No, non ve lo dico l'orario perché tanto è sbagliato. Domenica 3 febbraio, Celle Ligure. Primo raduno surrealista di radioascoltatori e radioascoltatrici di pane, burro e rock and roll. Abbiamo promesso che chi si presenterà vestito da cowboy o da indiano riceverà la patente da vero rocker honoris causa. Cosa che ha tra l'altro causato parecchi problemi, ma fa niente. Ma soprattutto mi ha permesso di scoprire che ci sono un sacco di cowboy all'ascolto, come tra gli altri anche Ezio, dico bene? Sì, esattissimo. Buona giornata. Ciao, gruppo ragazzi. D'ascolto Salumieri, se non ricordo male. Sì, bravissimo. Infatti non c'è più sentito per 2 mesi perché il cowboy Ezio si è spaccato un gomito cadendo da cavallo l'11 novembre. Ecco perché non c'è più sentito. Quindi tu hai una doppia vita, un po' cowboy e un po' Salumiere qui a Milano. Sì, diciamo che Salumiera a Milano mi serve praticamente per fare il cowboy. Esatto, per mantenere la vita del cowboy che non è così, cioè... Sì, cioè, nel senso, è pesante perché comunque io devo venire più presto la mattina, però poi tutti i giorni torno a casa e sono lì con i miei cavalloni, guarda, piglio, esco e via. Anche fai sognare un po' di radioascoltatori e radioascoltatrici, tu hai dei cavalli. Sì, sì, io ho 2 cavalli miei, ho praticamente... Ho un criollo puro argentino, sì, che è quello di mia moglie, che ha 8 anni, che si chiama Brisa. E io ho praticamente il mio invece è un quarter per un quarter horse per argentino. Quindi diciamo, come viene chiamato in argentino, un mestizzo, un misto. Ne sai quindi? Ne sai di, sì, sia sì, di cavalli che di vita on the road? Sì, praticamente io arrivo da una famiglia dove i miei zii allevavano cavalli da TPR, tiro pesante e rapido, quello per i lavori di agricoltura. Sì. Però vabbè, il mio sogno era, da bambino era il cowboy, ecco. Quindi si può fare, se avete un sogno di questo tipo, il buon Ezio l'ha fatto, cioè lui ha il suo lavoro, però si è comprato la casa un po' fuori, verso Pavia, se non ho capito male. Io sono praticamente l'ultima provincia della Pavese, poi dopo 600 metri da casa mia inizia l'Emilia Romagna. Okay. Quindi là, per fare, cioè, per dire una cosa un po' bruttina, cioè ci muore a cavallo, nel senso che lì esci da casa, non hai asfalto, non hai niente, certo, hai terre gollenari, boschi, certo, da fare, certo, colline, ce n'è di ogni. E senti, fai avanti e indietro tutti i giorni? Io mi sparo 120 km al giorno. Grande. Però vabbè, poi quando arrivo a Milano mi metto su Rock FM, quindi. Certo. Ma più che altro mi fai sentire un cretino, perché anch'io mi sparo 50 km tutti i giorni, ma vado a Gallarate, io, capito? Lo so. Potevo spostarsi, mi sposto un po' più in là. Io lo so che ti sembra retorica, però cazzi, quando arrivo a San Colombano all'Ambro, sì, e comincio a vedere, ti sembrerà assurdo, però incomincio a vedere le colline della Valtrebbia, la Valtidone, sì, così, cioè basta, scivola via tutto. Ti senti, capisci, più tranquillo, certo. Sì, sì, in realtà lo scopo di questa telefonata era molto molto molto più, sì, stupido. Noi dobbiamo, sì, qualcuno di noi vorrà vestirsi da cowboy. Ho sentito. Due dritte, dillo. Però io ho sentito, voi fate tutti i pistoleri, cioè lì, perché tutti i pistole, tutti. Cioè il cowboy fa anche il mandriane, capito? Eccolo, bravo. Quindi ci vorrebbe un lazzo. Bravo, ci vorrebbe il lazzo, poi ci vorrebbe, per fare il mandriano, vabbè, la bandana, che non è quella che ci si mette in testa, ma è quella che ci si mette davanti alla faccia. Esatto. Il fularone. Esatto. E se qualcuno, magari penso che in mezzo ai rocchettari ci sarà qualche arleista, quindi avranno dei chaps, sai, i pantaloni neri con, certo, le frange, così. Certo. Bravissimo, quindi è quello, e lì puoi evitare di mettere le pistole, perché il pistolero, sai, è un po' più elegantino, c'è il giberino, la camicina. Hai ragione. E poi è un cowboy più pacifista, quello senza pistole, quindi potrebbe piacerci di più. Esatto, però vabbè, ma ho sentito che comunque ha messo le foto degli indiani dentro nel carro e tutto, certo, della prigione. Sì, in prigione però gli ha messi. Sì. Allora, cazzo, uno sceriffo lo possiamo mettere. Anche, esatto. Esatto. Ecco, e niente, quindi lì adesso sta voi, cioè un po' di mandriani e un po' di cowboy, dai. Ezio, sei stato gentilissimo e poi credo tu abbia fatto sognare parecchi amici e parecchie amiche, okay, ai quali la città sta stretta. Ci sentiamo presto, anche perché io mi sono autoinvitato a casa tua. No, Pavia. Io ne ho già parlato a casa e tutto, viene che ci mangiamo un po' di gnocco fritto, un po' di salame che faccio io. E una bella bottiglia di Gotturnio. Ezio, il numero della redazione è qua, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, grazie. Vedi che serve? Ci stavamo dimenticando il mandriano, invece sta lì. Ma tu, freak, sei capace di fare il lazzo? Eccolo il cretino, vedi? Potrebbe essere una parola di ribelle, il lazzo. Si chiamano Who? Mai sentito? No, questo non è un telefilm, è la radio. Rock FM. Pane, burro e rock and roll. Gli ultimi minuti ce li giochiamo così. Termina il tempo a nostra disposizione anche per quest'oggi. Andiamo ad archiviare la puntata 173 di Pane, Burro e Rock and Roll. Ci sentiamo domani per quello che sarà una puntata speciale, nel senso che in anteprima mondiale finalmente potremo farvi sentire la nostra radionovela che si chiama Zorrock. Saremo in diretta e faremo una puntata surrealista, visto che sarà l'ultima prima del grande raduno. È veramente la fine. Gli appuntamenti del weekend: sabato sera mi trovate con il resto della banda, la Rock FM Monster Band, al Jamba Live di Rapallo, e domenica invece primo raduno surrealista, i radioascoltatori e radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll a Piani di Celle, Celle Ligure, presso il carnevale. Seguite il carro con la locomotiva e ci trovate. Se venite vestiti da cowboy o da indiani, vi schediamo anche per la patente da vero rocker. Sigla! Tra poco troverete la puntata di oggi su radiorockfm.com, sia in streaming che in podcast. Pane, burro e rock and roll. myspace.com/paneburrofm. Ci trovate la crema. Pane, burro e rock and roll. Torna domani dalle 7 alle 9. E stai preciso. E te mi credi. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo, yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno alla mattina, quando termina Pane, Burro e Rock and Roll, prosegue Marco Garavelli. Buongiorno Marco. Buongiorno a te, ma... Aia, eccolo lì. Ah, già partito. Spadino proprio ti sta sul pezzo, Ho preparato, Hai le previsioni del tempo. Per domenica. Localizzate su Celle Città. Allora, sabato, pioggia. Pioggia. Lunedì, ancora di più pioggia. Domenica, sole e a tratti nuvoloso. Va bene, quindi non piove domenica. Solo domenica. Perdonami se metto le mani sotto il mixer. È lunedì, ci vediamo. E me lo dirai. Quindi tu dici che siamo così fortunati ad avere pioggia il giorno prima e pioggia il giorno dopo. E domenica sole con la nuvoletta, però che si vede più il sole che la nuvoletta. Sì, diciamo 60% sole e 40% nuvoletta. Quindi anche quelli che vogliono fare gli indiani, che vengono mezzi nudi, sono tranquilli. Poi la temperatura non me l'hai chiesta. No, perché sapevi anche quella domani. Domani. No, scusa, domani parte Zorrock. Sì. Non vengo. No, dai, Marco. Non vengo. Ma guarda che hai fatto una cosa vengo, che... La recitazione era perfetta, Marco. Non fare così. Non mi presento. Non domani. Tirarti indietro. Zorrock sarà un successo, te lo dico io. Metto l'ologramma domani. Non mi presento qua. Ciao. Buona giornata.